si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno ad Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24, sabato e domenica insieme fino alle 10 del mattino. Tra poco cominciamo dando un'occhiata ai giornali di oggi, poi cominceremo con i nostri approfondimenti a caccia di buone notizie, di soluzioni ai problemi dell'Italia. I nostri contatti, se volete interagire con noi, si può fare trattino Radio 24, la pagina Facebook, chiocciola si può fare 24, l'account su Twitter, chiocciola Ale Maurizi, il mio account personale, 349-238-6666 per i vostri sms, anche su WhatsApp. Solo dopo il GR delle 8 il numero verde per intervenire in diretta. Cominciamo con i giornali di oggi. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, giornali che oggi titolano sulla vicenda dell'accordo per quanto riguarda Londra e l'Inghilterra, l'accordo in sede europea. Cercheremo di capire di che si tratta, anche se per i contenuti è presto, ci sono un po' di commenti, e poi naturalmente i giornali che sono riusciti a riportare la notizia della morte di Umberto Eco, un grande intellettuale, un grande scrittore, una di quelle personalità italiane conosciute nel mondo, tanto che ci sono tantissime le testate online a livello internazionale che riportano questa notizia. Cominciamo con il Corriere della Sera e invece per quanto riguarda Londra, lo status speciale per Londra, annuncio di Cameron, accordo raggiunto all'unanimità con la Gran Bretagna per il welfare agli stranieri, ancora 7 anni. Schulz, il presidente dell'Europarlamento, ecco come ho fatto incontrare Renzi e Juncker, un'intervista al presidente dell'Europarlamento Martin Schulz a proposito dei dissapori, diciamo così, tra l'Italia e l'Europa. C'è un'intervista di oggi sul Corriere per chi volesse approfondire questo tema in particolare. Per quanto riguarda appunto la questione di Londra, dicevamo, Bruxelles, c'è l'accordo con gli inglesi, stranieri, freno al welfare per 7 anni, Londra esentata da un'unione sempre più stretta, previste concessioni particolari anche per la finanza. Dicevo, presto per capire i contenuti di questo accordo, vediamo come la scrive il Sole 24 Ore, accordo europeo anti-Brexit. Sapete che è la sintesi con cui si delinea la possibilità appunto che la Gran Bretagna esca dall'Europa, quindi con un referendum che ci sarà nei prossimi mesi, entro giugno. Asse Renzi Merkel contro Austria e paesi dell'est sui ricollocamenti dei profughi. Ma per quanto riguarda l'accordo con l'Inghilterra raggiunto a Bruxelles, scrive il Sole 24 Ore, un accordo unanime con Londra per scongiurare l'uscita del Regno Unito dall'Unione. Cameron che dice avremo uno status speciale. Renzi, bene l'accordo, ma la partita con l'Europa inizia adesso. Alcuni commenti sul Corriere invece di personalità che vivono a cavallo tra l'Italia e l'Inghilterra e possono aiutare in questo momento, aiutarci a capire la posizione inglese, che cosa sta accadendo e perché. Cominciamo con l'ex direttore dell'Economist, Bill Emmott, che dice guerra in Siria, scontro frontale Russia-Turchia, migranti, e in questo scenario catastrofico Londra monopolizza il dibattito europeo per rinegoziare le condizioni della permanenza nell'Unione Europea. Parole critiche dure nei confronti dell'Inghilterra da parte di Bill Emmott, che dice in un contesto così difficile il fatto che si monopolizzi il dibattito su questa questione che riguarda solamente l'Inghilterra è un po' strano, è un po' difficile da digerire. Credo che sia quello che hanno pensato quasi tutti gli osservatori, i cittadini europei, leggendo i giornali in questi giorni, diciamo, per i non addetti ai lavori, scoprendo questo caso della Gran Bretagna, con tanti problemi che abbiamo, dobbiamo occuparci della Gran Bretagna, tant'è. Però quali sono le motivazioni che avrebbero spinto la Gran Bretagna su questo, verso questo passo? In 4 anni di crisi finanziaria e 2 di emergenza e immigrazione, l'Europa è stata inefficiente, fragile, incapace di collaborare. Certo, anche noi britannici non siamo stati di grande aiuto, questo Bill Hammett. Parole ancora, diciamo, di segno opposto, meno critiche nei confronti di Londra e più critiche nei confronti dell'Europa, sono quelle di un altro personalità, Tim Parks, scrittore, che dice: se Londra esce cambia tutto, anche nelle piccole cose quotidiane che oggi diamo per scontate nel nostro modo di sentirci cittadini. Non credo che a Bruxelles abbiano una percezione chiara del grado di intolleranza sviluppato dai britannici verso certe distorsioni burocratiche. Insomma, è un po' la stessa sensazione che proviamo noi, pur non essendo britannici, nei confronti dell'Europa, noi, insomma, i più euroscettici, chi più chi meno, nei confronti, diciamo, della lontananza a volte che si percepisce dell'Europa rispetto ai problemi dei cittadini e di queste distorsioni burocratiche. Conclude Tim Parks: continuo a sperare che non ci separeremo. A questo punto mi aspetto una maggioranza risicata al referendum. Comunque vada, resteremo amici. Una maggioranza che potrebbe arrivare nel momento in cui Cameron si presenterà a Londra con questo risultato di avere concesso uno statuto ancora più speciale a Londra per rimanere nell'Unione Europea. Ultima opinione che vi propongo è quella di Simonetta Agnello Hornby, anche lei scrittrice palermitana di nascita, d'adozione londinese, che spiega con il nodo dell'immigrazione la questione che sta attraversando Londra. Non è più un voto per l'Europa, ma sull'immigrazione, dice. Londra è una città internazionale, certo, nel midollo, ma il resto del paese resta un'isola. È come isola, ha paura, a differenza che in Sicilia, porto di passaggio, in Gran Bretagna tutti arrivano per rimanere, tutti intende gli immigrati. E in un momento di massima incertezza questo aggrava il senso di assedio, la paura del nemico alle porte. E questo per spiegare un po' la posizione inglese in queste ore. Andiamo alla scomparsa invece di Umberto Eco, una scomparsa che anche per il suo modo bonario di porsi, per quest'area da zio burbero, polemista, ma sempre in modo comprensibile, quasi per tutti, direi per tutti, non, era uno che volava alto senza farselo pesare, credo che la scomparsa di Eco addolori un po' tutti. Addio a Eco, il nome della cultura trasformò la sapienza in romanzo, così Repubblica, per la quale Ecco pure scriveva, collaborava. Il ritratto di Antonio Gnoli, 2 o 3 cose venivano in mente incontrando Umberto Eco: il whisky, il calembour e il medioevo. Le prime due, cioè il whisky e il gioco, l'amore per il gioco di parole, appartenevano alla sua natura giocosa e mondana. L'ultima, invece, la passione per il medioevo, era il frutto di una strapitosa curiosità. Quel mondo remoto, segnato dalla superstizione e dalle nevrosi collettive, lo affascinava per stupire. Può stupire la dedizione a quei secoli, ingiustamente definiti bui, in un uomo che non ha mai dubitato della propria natura illuminista. C'era questo contrasto in Umberto Eco, lui razionalista fino al midollo, specializzato amante del Medioevo, che è sì quel periodo storico dal quale poi nasce l'epoca dei lumi, dell'illuminismo e del razionalismo, ma era un periodo invece nel quale, insomma, gli amanti della scienza non se la passavano benissimo. C'era questo amore in lui. Eco amava mescolare generi letterari ed epoche storiche, padroneggiando con abilità borghesiana l'universo dei libri e i suoi segreti. Tra le tante cose fu anche un bibliofilo raffinato e competente, come pochi, seppe giocare con la realtà, seppe affrontarla nei suoi toni alti e bassi. Il titolo di alcuni suoi libri: Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, il suo ultimo romanzo Numero Zero, la raccolta di saggi Diario Minimo, e poi ancora Apocalittici e Integrati, il trattato di semiotica generale. Per quanto mi riguarda, Umberto Eco, prima ancora che il fine intellettuale, lo scrittore che al mondo appunto ci invidia, era proprio questo, era questa specie di vecchio amico, di zio, di nonno burbero, dipende poi dall'età di ognuno di noi, che stava con cui ormai si era fatta una confidenza, sembrava che dovesse rimanere sempre lì, di non venire mai a mancare, e nonostante il fatto che non amasse andare in televisione più di tanto, ognuno di noi ha un'immagine, un ricordo legato a lui e a questa sua capacità di polemizzare su tutto, prima ancora che nascessero i polemisti di professione, quelli che poi hanno spopolato nelle televisioni in questi ultimi anni. Per polemica intendo proprio la capacità di trovare il gusto della notizia particolare, di metterci di fronte a delle verità inattese, sorprendenti, a volte scioccanti, che si trattasse di raccontarci chi era veramente Mike Bongiorno, la fenomenologia del conduttore televisivo, uno dei suoi primi scritti di cui si parla ancora, o che si trattasse di spiegarci chi è l'ISIS, quali sono le radici culturali della violenza che viene dal mondo islamico, o che si trattasse più recentemente di dire che nei social network si è data la parola ai più stupidi o ai più sciocchi, adesso non ricordo che la parola che aveva utilizzato, tutti giù a dire ma no, i social network e internet sono anche un veicolo di tante cose belle, lui certamente lo sapeva, ma in quel momento voleva metterti di fronte a quella verità, come dargli torto, certo c'era quell'aspetto della verità sui social network, oppure ancora ancora più recentemente, forse preso anche un po' dai suoi anni, dalla malinconia senile, quando rimpiangeva l'epoca in cui non ci si dava del tu ma ci si dava del lei, il formalismo, l'educazione, la buona cultura, insomma su cose piccole e grandi riusciva a polemizzare con il gusto della battuta anche. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi, ascoltatori, e ancora a leggere di Umberto Eco, della scomparsa del grande Umberto Eco. Torniamo su Repubblica, dove oltre al... anzi, vi leggo un ultimo passaggio del ritratto di Antonio Gnoli, che scrive così: tra i grandi meriti di questo intellettuale c'è anche lo straordinario interesse che le sue opere hanno suscitato a livello internazionale. Fu così che l'Italia, quasi d'improvviso, apparve grazie a lui un paese culturalmente meno asfittico e deprimente. Un grande successo nel mondo, quello di Umberto Eco, a partire dal nome della Rosa in avanti. Poi si riscoprì tutta la sua produzione letteraria, i suoi saggi, ripetiamo, su cose alte, di alta filosofia, ma anche su cose spicce. La sua ultima grande avventura è cominciata lo scorso novembre, quando con il direttore editoriale Elisabetta Sgarbi e un folto gruppo di autori italiani e internazionali ha lasciato Bompiani, nel pieno della fusione tra Mondadori ed RCS, per fondare una nuova casa editrice, La Nave di Teseo, ed è davvero triste che non abbia fatto in tempo a vederla salpare. Il ricordo anche di Stefano Bartezzaghi, che ne tratteggia, come dire, l'immagine soprattutto per quanto riguarda il suo insegnamento all'Università di Bologna, già perché Umberto Eco faceva parte del mondo accademico, anche mondo quindi dell'università, ma senza averne mai avuto un ruolo troppo centrale. Non era romanocentrico, non era milanocentrico, era nato in Piemonte, in una piccola città, e aveva insegnato, aveva una casa anche a Milano, aveva insegnato a Bologna, Bologna città periferica nell'ambito della cultura italiana. Bologna però eccellenza dal punto di vista universitario, lì aveva animato tanti centri di cinema e cose molto importanti. importanti. L'ho incontrato, scrive Bartezzacchi, la prima volta nel novembre del 1981 all'Università di Bologna. Voci di corridoio insinuavano che si facesse regolarmente sostituire dai suoi assistenti, distratto dal lancio internazionale del Nome della Rosa, che a un anno dall'uscita stava passando dallo status di inatteso bestseller alla dimensione allora inedita di mega seller planetario. Ma non era vero niente, scrive Bartezzacchi. All'università, ecco, si sentiva come a casa propria. Dentro quelle mura era un docente e non una star. In quegli anni non ho mai visto nessuno chiedergli un autografo su un romanzo. Bastava bussare alla sua porta per essere ricevuti. Gli studenti venivano trattati come colleghi juniores. Eccolo infatti rompere nell'aula affollata dove per anni l'avrei visto fare lezioni ogni giovedì, venerdì e sabato, fino a maggio, a volte anche con la febbre. L'anima sabauda non gli consentiva di deflettere e poi gli piaceva proprio. Quel primo giorno tracciò una linea orizzontale per tutta la larga lavagna, la divise in segmenti irregolari, ognuno un secolo, dal quinto al quindicesimo. Per le restanti due ore avrebbe riempito tre fasce parallele alla linea cronologica, dedicate rispettivamente ai fatti storici, a quelli culturali, alle innovazioni tecnologiche. Il Medioevo era di fronte a noi. Ancora decenni dopo avrei sentito persone insospettabili dire, dopo una sua conferenza, mi ha messo voglia di studiare. È vero che Umberto Eco ti metteva voglia di studiare perché sapeva talmente tante cose, lo capivi da tutti i suoi riferimenti che faceva, che dice, cavolo, mi piacerebbe colmare la distanza che c'è tra me e lui, almeno un pezzettino, avere un pochino della sua sapienza. Per poter argomentare, per poter capire, per potersi orientare nel mondo. Dalla stampa, addio Umberto Eco, con lui la cultura diventò bestseller, il ritratto di Gianni Riotta, filosofo, padre della semiotica, scrittore, docente universitario, giornalista, corsivista felice, esperto di libri antichi in ciascuna delle sue anime. Eco, scomparso ieri a 84 anni, era una stella internazionale. Anche qua qualche aneddoto che riguarda il grande scrittore. Raccontava senza astio di essere andato in cattedra molto dopo i suoi coetanei, perché non facevo gli auguri ai baroni, cioè non era uno che faceva parte della cerchia dei baroni, pur essendo poi lui diventato di fatto un barone, ma in senso qui positivo, se è possibile. Ma era il suo, scrive Gianni Riotti, ma era il suo trattare la cultura alta e bassa con la stessa appassionata dedizione a renderlo sospetto agli snob italiani. Che un semiologo, un critico letterario, un filosofo si occupasse di fumetti, perché era stato tra gli animatori di Linus con Oreste Del Buono, che un docente predicasse per capire la cultura di massa dovete amarla, non potete scrivere un saggio sul Flipper se non ci avete giocato a Flipper. Ecco, tutto questo stuccava i nipotini di Croce, scrive Gianni Riotta. Per i prossimi due giorni leggerete solo articoli in cui tutti daranno del maestro a Umberto Eco, ma dal vivo lui faticò per affermarsi nell'Accademia e molti campioni del passato, Pietro citati per esempio, lo attaccarono senza complimenti. Vabbè, si potrebbero dire tante cose. Gentile, generoso, affabile, Eco rifiutò le cattedre che l'America gli offriva, scherzando: non posso mica vivere in un paese in cui non si fuma né si beve un caffè. In realtà rifiutava perché era legato all'Italia, Alessandria in cui era nato e di cui parlava il dialetto, Milano che amava con la sua casa biblioteca al castello, gli amici, la famiglia, la moglie Renate e i due figli Stefano e Carlotta. Ora, diceva, faccio il nonno e di libri discuto con i miei nipotini, spiegando a Stefano che si può regalare un fucile giocattolo. Il gioco è cultura, no? E anche qui riferimento a un celebre articolo di tanti anni fa, una polemica sul fatto, anche qui diciamo andando contro una verità pacifista di quegli anni, si può regalare ai bambini un fucile giocattolo. Il perché di questa spiegazione andatevelo a cercare in quel celebre articolo. Non c'è quasi più tempo, ma era giusto dedicare quasi tutto lo spazio a ricordare la grande figura di Umberto Eco. Noi ci fermiamo qua con la rassegna stampa, ci risentiamo subito dopo il giornale radio con Si può fare. Vi dico solo che avremo in studio con noi Gioele Dix in collegamento a Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, che ci parleranno del loro spettacolo Matti da slegare. A dopo. si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky up, uptown funky up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno a tutti, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno e buon sabato a tutti. Eccoci qua, 800 24 00 24. Vi aspettiamo, cari ascoltatori, per commentare tutto quello che sentite, per oggi anche per darci il vostro ricordo di Umberto Eco, perché è doveroso sicuramente. Doveroso, spiace molto. Una persona che mancherà anche per il suo modo di porsi, mai troppo invadente, nonostante tutti sapessero benissimo chi era, tutti conoscessero almeno un suo libro, una sua polemica, una sua affermazione, verissimo. Anzi, quello che vi chiediamo oggi è proprio questo: quando siete venuti a conoscenza di Umberto Eco, quando avete letto, che ne so, Il nome della rosa, che è il libro più famoso, lui stesso disse in una dichiarazione, disse: odio il nome della rosa, è il mio peggior romanzo. Quindi questo faceva per dire parte, no, del personaggio. Anche questo tipo di frasi che improvvisamente. Poi a un ascoltatore che al 3492386666, c'è chi mi ringrazia per aver dedicato la rassegna stampa quasi tutta a ricordare Umberto Eco, ma andava fatto. È un ascoltatore che mi accusa di essere ignorante sul Medioevo, ma non per difendermi, perché sicuramente lo sono ignorante sul Medioevo, ma quello che avete sentito non erano parole mie, ma di Antonio Gnoli su Repubblica, che diceva: strano che un uomo amante della ragione come Umberto Eco avesse scelto di specializzarsi proprio sul Medioevo. E queste sono le contraddizioni, anzi forse magari non è una contraddizione, ma insomma, i paradossi della vita. Io ho studiato pochissimo Medioevo, perché oggi bisognava portare Medioevo. Oggi sì. È sabato, io ho portato matematica. Dal 500 al 1492. Porca miseria, così alto, basso, tutto il Medioevo. Vi aspettiamo, cari ascoltatori, con il vostro ricordo di Umberto Eco. Che sia la fenomenologia di Mike Bongiorno, che sia la polemica sui social network che hanno dato la parola agli stupidi. Ah, giusto, che su sia Twitter. L'ultima, io l'ho ricordata, quella in cui diceva che rimpiangeva l'epoca in cui si dava del lei, del voi addirittura. È vero, perché si rimpoveriva la lingua anche in a questo. Me facevano impazzire queste cose. Poi magari io sono uno che darebbe del tu a tutti, però capivo le sue ragioni e mi appassionava. Io non do del tu a tutti. E in più anche per molti Umberto Eco poi è stato invece incrociato durante gli studi universitari, quindi c'è chi ci ha fatto la tesi, quindi anche tutto. E siccome aveva 84 anni, lo ricordiamo, le persone che sono entrate in qualche modo in contatto con Umberto e col suo pensiero e i suoi scritti, direi che siano la totalità degli italiani. Tra poco parleremo di cappellani militari, di preti in pensione dello Stato, tra cui il Cardinal Bagnasco, e di una petizione. Però, ripeto, 800 24 00 24, ci piacerebbe che oggi ci aiutaste con i vostri personali ricordi a parlare di Umberto Eco. Ce l'abbiamo anche forse qualche sua frase, qualche suo spezzone? No, non ce l'abbiamo? Non ancora. Ce l'avremo. Tra poco. Sì, forse sì. Fatemi un cenno. Sì o no? No. Allora, è il momento dei cenni alla regia, che ricorda il momento di bellissimo. Mentana. Ieri l'ho visto, esatto, in diretta, il momento di Mentana, in cui a un certo punto al secondo servizio che non partiva, l'hai già ricordato forse tu prima, al secondo servizio che non partiva, a un certo punto, parlando con la sua redazione, ha detto: vabbè, va bene, allora dite voi che cosa parte, datevi un servizio a scelta, fate voi un servizio a scelta, domanda libera. È stato divertente, anche se ovviamente si vedeva l'odio che zampillava dagli occhi. E allora andiamo ad iniziare, vai. Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma lo avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore. questo Max Gazzè sotto casa che ci piace sempre di ascoltare quando parliamo, per esempio, di religioni, siamo alla notizia da cui partiamo oggi. Lo Stato italiano toglie alle pensioni di reversibilità e alle vedove per dare a Bagnasco e a tutti i cappellani militari. Non è sfuggito ad alcuni giornali, non è sfuggita questa contraddizione per la quale si sono ventilati in questa settimana tagli alle pensioni di reversibilità. Poi il ministro dell'economia ha detto no, non toccheremo le pensioni, però insomma sembrava, e poi non si sa mai tra le pieghe dei bilanci cosa potrà succedere, senza però toccare altre strane situazioni di privilegio come quella dei preti in pensione come cappellani militari, ma non sono in servizio della Chiesa e non dovrebbero essere pagati dallo Stato, ci domandiamo. Tra loro, tra l'altro, c'è pure il cardinal Bagnasco. Diamo il buongiorno a Ciro Verrati. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Presidente di Laici Italia, vice segretario nazionale di Democrazia Atea. Una realtà questa dei preti cappellani militari in pensione dello Stato che aveva sollevato l'Espresso 2 o 3 anni fa, e adesso ci tornate voi con una petizione per chiedere cosa? Esatto. Beh, innanzitutto vorrei fare una premessa. La petizione l'ho lanciata in nome e per conto dell'Associazione Laici Italia, che io rappresento, come avete detto, in qualità di presidente. Certo. È un'associazione che ha come oggetto sociale la tutela di diritti costituzionali e universali. Giocoforza vuole che spesso andiamo a tutelare diritti negati che sono strettamente collegati alla difesa della laicità delle istituzioni. Questo è il nocciolo della questione. Perché succede questo? Perché nonostante in Italia sulla carta ci sia uno Stato laico, sarebbe più corretto dire ateo, se volete poi vi spiego la differenza. Volentieri. Nella sostanza invece è uno Stato teocratico, oscurantista, che quotidianamente disattende la Costituzione e toglie i diritti. Logicamente questo caso dei preti, dei cappellani militari, nello specifico di Bagnasco, possiamo definirla la punta di un iceberg, che ci costa circa 10 miliardi all'anno. Sì, allora mi faccia puntualizzare solo una cosa. Lei giustamente dice la punta di un iceberg. Dal suo punto di vista c'è l'iceberg, dal mio punto di vista c'è la punta, che in effetti non è sostanziosa, perché quando parliamo di queste pensioni dei preti cappellani militari parliamo di circa 10 milioni di euro all'anno. Una punta, sì. Perché naturalmente nei bilanci dello Stato non sarà grossa cosa, però insomma quando si dice di voler tagliare, allora è giusto anche come dire, guardare la questione in maniera più ampia e andare a vedere anche quelle che sono anche le punte, e soprattutto punte, in realtà il discorso che stava facendo è che in realtà lo Stato elargisce qualcosa come, mi correggo ovviamente se sbaglio, 10 miliardi allo Stato Vaticano per le questioni del concordato sotto varie forme, esenzioni, esatto. Beh, allora se prendiamo proprio il fondo di previdenza del clero, che è una voce che va a concorrere quei 10 miliardi, sì. Parliamo di 7 milioni, sembrerebbero briciole. Però è una chicca di questi giorni apprendere che l'INPS ha dichiarato che il fondo di previdenza del clero, che è una voce di capitolo di spesa dell'INPS, ha un disavanzo patrimoniale di 2 miliardi e mezzo. Patrimoniale? Perché? Beh, 2 miliardi e mezzo non sono pochi. Non sono noccioline. Il motivo è molto semplice. Un appartenente al clero, un clericale, viene automaticamente registrato a questo fondo durante la sua attività di prete, di cardinale, quello che è. Versa un euro di contributo e ne riscuote 100. Questo è il motivo per cui c'è un disavanzo patrimoniale in questo fondo. Sì. Un esempio lampante è Cardinal Bagnasco, che ha lavorato 3 anni, dal 2003 al 2006, e percepisce una pensione da cappellano militare con il grado di generale d'armata di 4.000 euro. Ecco, è generale d'armata, perché in realtà ho letto che è anche generale d'armata Bagnasco. Esatto, perché c'è questa regola che diciamo l'ordine, il ruolo che rivesti nella gerarchia clericale viene pari pari riportata nella gerarchia militare. Certo, certo. Sì, se posso dire una cosa, quando giustamente si diceva che sono forse pochi soldi, è anche un po' una battuta, visto che stiamo parlando proprio di Bagnasco, anche la famosa questione delle pensioni di reversibilità per le coppie omosessuali, nel caso che dovesse passare il DDL Cerinà, è comunque una cifra molto bassa, quindi direi che potremmo non darla ai preti e darla alle coppie omosessuali, così come si fa pari. Certo, è logico che questa petizione vuole essere una provocazione. Ecco, ma a proposito di provocazione, no? Perché una provocazione però per sollevare una questione? La questione è perché c'è una ragione per cui una ratio, per cui lo Stato dovrebbe invece pagare, come sta facendo adesso, le pensioni ai cappellani militari e non essere invece il Vaticano, cosa che potrebbe sembrare naturale. Esatto, prendiamo atto. C'è un motivo. Infatti i lateranesi dicono che deve essere assicurata l'assistenza spirituale, che comunque io posso contestare, perché un militare esce dalla caserma e chiese ne trovo finché vuole, ma al di là di questo deve essere assicurata l'assistenza spirituale, ma non deve essere assicurata la retribuzione a chi fa assistenza spirituale. Quindi non c'è nessun motivo per cui lo Stato debba versare la retribuzione a questi rappresentanti di un extracomunitario. Giustissimo, però l'idea è che se io devo garantire l'assistenza spirituale ai miei militari, io come esercito devo pagare coloro che assicurano questo. Io mi chiederei di più, semmai, perché tutti i nostri militari dovrebbero avere l'assistenza spirituale, nel senso che potrebbero esserci anche dei militari atei o dei militari buddisti o dei militari musulmani e anche loro. Il cappellano poteva essere magari utile tanti anni fa, in tempo di guerra, ma oggi come oggi, un militare esce da una caserma, ha solo l'imbarazzo della scelta per scegliere quale chiesa andare a chiedere assistenza spirituale. Anche questo è vero. E poi poter andare in pensione dopo soli 3 anni, come è accaduto a Bagnasco, sembra veramente una follia proprio assoluta, una pensione per aver fatto per 3 anni il cappellano militare. Però Berrati, le voglio chiedere, ma siamo sicuri di questa pensione di Bagnasco? Perché sembra che ci sia un po' di mistero attorno a questa cosa. Si dice 4.000 euro al mese. L'Inps è reticente, ma le dirò di più, ci sono dati che indicano che siccome per i rappresentanti di questo Stato extracomunitario esiste la pensione, può essere cumulabile, quindi Bagnasco avrebbe 2 pensioni, una da generale d'armata nell'esercito e una per aver svolto l'attività clericale durante la sua attività lavorativa, quindi avrebbe addirittura una pensione totale di 7.000 euro. Io poi voglio aggiungere una cosa, non è che ce l'ho con Bagnasco in quanto tale o in quanto prete o in quanto prete che percepisce una pensione, però ce l'ho con chiunque percepisca una pensione dello Stato dopo aver fatto per 3 anni qualunque tipo di attività, vuoi che sia il vitalizio, ci sono giustamente delle battaglie che si stanno facendo contro i vitalizi e piano piano qualcosa si comincia a fare anche su quel fronte contro i vitalizi, un privilegio di un'altra epoca storica che non ha proprio più alcuna giustificazione, lo stesso deve valere per chiunque altro, compreso il cardinal Bagnasco, io penso, e lui come gli altri cappellani militari, o anche la questione dei militari che spesso si sa, per convenzione, succedeva che venivano promossi il giorno prima della pensione in modo da andare in pensione con un assegno più lauto. Queste sono cose che non si dovrebbero più vedere in un paese normale che deve fare i conti con cosa? Col deficit, certo. E con il modo in cui si spendono i soldi dei cittadini. Questo vale per tutti, non solo per Bagnasco. Questa non è una guerra contro la religione, questo è un fatto puramente economico. In un momento storico in cui c'è una profonda crisi economica, c'è una profonda crisi occupazionale, dove perdere il lavoro è all'ordine del giorno, dove i pensionati lottano per arrivare a fine mese, è inaccettabile, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, permettere ancora che ogni anno noi regaliamo al Vaticano 10 miliardi. È una legge di stabilità questa, praticamente. Voi di democrazia atea però, verrà, perché lei dice giustamente è una questione che vale per tutti, quello che dicevo anch'io, però voi in particolare di democrazia atea siete un'associazione di che tipo? Noi siamo un partito di piccole dimensioni sì. Che opera da circa 6 anni, fonda tutti i suoi assunti sul rispetto della Costituzione e dei diritti universali. Per forza, quindi andiamo anche a toccare spesso e volentieri questi problemi. Quindi noi non facciamo una lotta, una guerra alla religione, perché noi siamo convintissimi che coltivare la propria spiritualità sia un diritto primario. Noi siamo contrari al potere politico-economico che la Chiesa ogni giorno ci dimostra di avere i nostri confronti. E ai privilegi. La violenza della Chiesa Vaticana non è accettabile. E ai privilegi ingiustificati, questo aggiungo io. DDL Cirinnan è una prova attuale. Beh, direi che è una prova veramente lampante. Infatti, se devo dire, anche su quello, nel momento in cui Bagnasco è entrato a gamba tesa, a detta di tutti, dicendo che il voto doveva essere segreto, diventa anche interessante al momento che uno dice: in più è lo stesso Stato che paga la pensione a questo signore. Quindi un pochino uno potrebbe perlomeno pretendere che lui rispetti le regole, visto che questa è una regola che lui non può intervenire in politica. Viene quotidianamente disattesa a causa di un governo che è deviato da valori cristiano-cattolici che non dovrebbero averci niente a che fare con l'attività politica. Tutto là, insomma, la tua spiritualità è un tuo diritto, te la coltivi a casa tua, nei luoghi preposti, ma non nelle aule di Parlamento. Per chi volesse, Verratti, come si fa a sostenere questa petizione che ha già ottenuto circa 75.000 firme? Deve solo cliccare change.org, la trova nella home page tra le primissime petizioni, e clicca e la firma. Ma diciamo anche il nome esatto della petizione, se dovesse scendere dalla home page? Il nome esatto della petizione non se lo ricorda più Verratti, vabbè, non importa, si trova si trova sulla piattaforma change.org. grazie Verratti, che è quella che normalmente, diciamo, ospita tutte le varie petizioni, è la principale piattaforma che ospita le petizioni. Uno può anche farsi un giro e firmarne tre o quattro se vuole, se ha tempo da perdere. Anche perché noi ne parliamo spesso di questo, è interessante. Ripeto, io personalmente non sono sicurissimo che la pensione del prete, cappellano, militare la debba pagare lo Stato o il Vaticano, non lo so, mi interrogo. Abbiamo ospitato una petizione che dice che non dovrebbe pagarla lo Stato, dovrebbe pagare il Vaticano. Quello che non è ammissibile è che si possa andare in pensione con 3 anni di attività, perché spesso fare il cappellano militare è un'attività collaterale rispetto a quella di essere prete, di fare altre attività, e quindi questo proprio mi sembra un privilegio. Sfido chiunque a difenderlo da questo punto di vista. Non lo so. 800 24 00 24. Come sempre vi aspettiamo anche con le vostre opinioni, anche e soprattutto se diverse dalle nostre, purché si possa dialogare. E poi vi aspettiamo per il vostro ricordo di Umberto Eco. Sì, infatti sono stato stupefatto che in 2 giorni sono uscite tutte le recensioni, sì, diciamo, e anche positive. Quando scrivevo, diciamo, che cosa significa questa cosa, che per me è il centro del discorso. Quando scrivevo libri di 500 pagine non avevano tempo a leggerlo, invece così la prossima, se ci arrivo, lo faccio di 30 pagine, chissà. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. 800 24 00 24. Cominciamo con i vostri interventi. Abbiamo Enrica che ci chiama dalla Spezia. Buongiorno Enrica. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Ciao. Su cosa volevi intervenire, Enrica? Volevo raccontare il mio personale ricordo di Umberto Eco, perché è una cosa che mi è rimasta impressa, se possibile. Certo, prego. Allora, era il 83-84, non sono sicura, ero una matricola dell'Università di Pisa, e al convegno di Spoleto sull'Alto Medioevo, accompagnata lì da un professore eccezionale che era Ottone d'Assia, un archeologo medievale molto importante. E siccome Ottone d'Assia era anche un nobile molto molto noto, la sera dell'arrivo a Spoleto facemmo una sorta di aperitivo, di, non mi ricordo bene, insomma, di incontro noi tutti studenti con Ottone d'Assia e Umberto Eco. La vita gaudente degli studenti universitari, no, sto scherzando, ma momenti di convivialità. E conoscesti Umberto Eco, che era già noto, era già noto e fu di un'antipatia allucinante. Vedi. Come mai? Cosa fece di molto antipatico? Ma intanto non ci considerò, proprio con noi come studenti eravamo una specie di gregge così da non considerare. Poi espresse delle opinioni così trancianti, così anche alle nostre timide domande fu veramente odioso. Odioso al punto che tutti i miei compagni decisero di boicottare la sua conferenza il giorno dopo. Addirittura. Beh, questo è un ricordo particolare. Devo dire. Cosa diversa, e poi me lo chiedi. Come? Io ci andai. Sì. Fui l'unica ad andarci. Ah. Era una conferenza sul latrato del cane. Era nel Medioevo, nella letteratura medievale. Fu talmente bella che se io avessi avuto i mezzi finanziari per studiare a Bologna e non a Pisa, mi sarei trasferita immediatamente. Per studiare solo latrati di cani? No, per studiare il Medioevo con lui. Quindi, scherzo, ovviamente. Enrica, cambiasti un po' opinione rispetto alla sera prima, in qualche modo, o no? Cioè, su lui come uomo, no. Francamente, no, ma come studioso, ed era la cosa complessivamente, però, l'importante è questo, perché io stavo per dire, spesso a conoscere direttamente delle grandi personalità che fanno delle grandi cose, si può rimanere delusi dal punto di vista umano e personale, perché vero. Sempre essere un grande professore, un grande intellettuale, una grande personalità nel mondo scientifico o accademico, nella cultura, può voler dire essere delle persone simpatiche. Anzi, non è nemmeno richiesto. Ma anzi, spesso le due cose divergono, chissà per quale strano arcano del destino. È il motivo per cui io, quando mi è capitato di incontrare non Umberto Eco ma altre personalità del genere, magari se non era proprio necessario, ho fatto un passo indietro. Certo, stai parlando di Cristiano Ronaldo, vero? Esatto. Comunque, grazie Enrica per questo bel racconto, che è in chiaroscuro, è bello per questo. Molto bello. Paolo da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. No, io non sono una persona dotta, il mio intervento è assolutamente di una banalità estrema, però non è richiesto. 10 anni prima di quando Enrica, mi pare l'83, lo conobbe. E quindi nel 73 io ero studente d'architettura, sono architetto indegnamente. E eravamo a un ristorante che molti conoscono a Firenze, Mario, al Mercato Centrale, che è un ristorante eccezionale dove ci vanno tre tipologie, e allo stesso tavolo c'era Umberto Eco, Pio Baldè, il professor Maggiore insegnava architettura, e lì io non interloquì, ascoltavo e basta, rimasi affascinato perché parlavano un po' tra loro, vi ripeto, io non interloquì minimamente. Poi lei era, Paolo, personaggio... lei tu, insomma, eri un giovane studente, quindi immagino che il fascino rimasi sconvolto. Ma di cosa stavano parlando? Parlavano di semiotica e semantica. Ah. Io veramente, per me poteva essere una roba da mangiare tranquillamente. Allora, pensavo per me potevo anche alzarmi e andarmene. Cioè, tu pensavi fosse il menù? Pensavi fosse il menù? Fosse un primo. Prendo due semiotiche anch'io. Mantecato, no? La semantica. Pensavo fosse una pasta asciutta. E rimasi sconvolto. Parlava solo lui, c'era anche gli altri due rimasero. Parlava solo e veramente il segno, e poi era anche perché il professor Maggiora insegnava, che era anche il mio professore, lì erano tutti mischiati, era un ristorante fantastico, barboni, professori, turisti, studenti, cioè tutti insieme, no? Dove capita capo. C'è anche un po' di nostalgia, Paolo, forse anche per la giovane età che avevi, come succede a tutti noi, crescendo, per non dire invecchiando, però per un periodo nel quale forse c'era un po' più fermento dal punto di vista culturale, come dicevi tu, professori, turisti, studenti, tutti mescolati, tutti in cerca di una verità o di una propria strada da seguire. Forse c'è anche un po' di questa nostalgia nel tuo racconto, Paolo. Grazie del racconto. Bene, grazie del racconto. E noi vi aspettiamo. Continuiamo ad aspettarvi con il momento nel quale avete incontrato nella vostra vita Umberto Eco. Che sia stato il saggio su Mike Bongiorno, famosissimo, o la lettura di un libro, magari Il pendolo di Foucault. Io non l'ho letto. Ma Pendolo molti di Foucault, dicono poi che fosse difficile. Che quindi a metà o anche prima mollavano. E se non ricordo male, io mi ricordo quando uscì che ci fu anche era pieno di, credo, errori di stampa. Ne uscì una seconda versione, se non ricordo male. O poi comunque appunto Il nome della rosa. Io in realtà ho questo micro ricordo, anzi più che un ricordo, è una cosa che non risolverò mai, perché io su Twitter sono seguito da Umberto Eco. Umberto Eco ha un account Twitter che però credo che usasse pochissimo. Poco, usava poco. Pochissimo. Io mi sono sempre chiesto se fosse lui, in realtà.

eccoci qua di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. E con noi Gioele Dix. Buongiorno, buongiorno. Ciao Gioele, benvenuto. Grazie. Benvenuto in scena. Dal appena un 20... pochino in più la mia, poco a poco. Ecco, cominciamo perfetto. Subito a puntualizzare. Sì. Che bello, che bello. Faccio anche il tecnico radiofonico. Il bello della diretta. Un pochino, grazie. Perfetto, il bello della diretta. Posso mettere nel curriculum Carlo Gabardini. Esatto, ho messo tecnico personale. Ho messo a posto l'audio di Gioele Dix. Adesso lo metto nel curriculum. Hai un passato e anche un presente di teatro. Assolutamente, assolutamente. E forse un futuro, chi lo sa. Infatti mi emoziono sempre quando ci sono qua uomini di teatro. Gioele Dix, che porta in scena dal 24 febbraio al Teatro Carcano di Milano lo spettacolo Matti da slegare, sì. Con Giobbe Covatta e Ezio Iacchetti, che saranno in collegamento telefonico con noi tra pochissimo. Piacere averti qua, finalmente un progetto teatrale, uno spettacolo che si occupa di un tema sociale così importante, il disagio mentale o la follia, come dicono i filosofi. Voi certo, che parola? Certo, disagio mentale, la follia, loro ci vanno, i personaggi ci vanno giù dritti, dice, noi siamo matti proprio, siamo sì, stiamo anzi, in manicomio, sì. Usano tutte parole diciamo scorrette. Questo è molto vero, no? Perché chi ha avuto a che fare, tutti credo, con questo ambito, con persone che sono state magari in cura o, usano queste parole, non si fanno problemi, certo. Dire matti, folli, infatti quando dopo che hai lavorato con loro poi permettete anche tu di chiamarli matti, perché io uguale ho girato un film che si chiama Si può fare, con Biso, dove facevo il matto. Lavoravamo anche insieme ai matti e loro mi hanno dato l'autorizzazione a poterli chiamare matti, certo, quindi sì, questa sì. Questione di dover sempre dire malati mentali è uno degli elementi di forza di questo testo, che è un testo norvegese che è stato riadattato, sì. da me, non perché l'ho tradotto dal norvegese, che non conosco così bene, lo conosco abbastanza. Sai parlato quello da bar, sì, tu. Più che altro perché questo è un dialetto del nord della Norvegia, quindi un po' stretto. No, però io ho fatto il riadattamento ed è un testo che nasce nasce da un romanzo che si chiama Fratelli di Sangue, dal quale è nato anche un film, quindi è una storia molto prolifica, un film che si chiamava Elling, il nome del protagonista, sì. Che ha concorso per l'Oscar come miglior film straniero nel 2002. Un film delicato, un'ironia molto forte, però molto poetico, anche perché uno dei due matti, diciamo così, trova la sua liberazione attraverso la poesia, perché scopre una sua vena di letterato e riesce inizia ad avere a successo, prende il coraggio di scrivere, mentre l'altro attraverso l'amore, attraverso la bontà, la generosità che ha sempre avuto istintivamente e che è sempre stata compressa, trovano, e questo è il racconto sostanzialmente di questa avventura di questi due matti che, usciti da quello che loro chiamano manicomio, certo. Che in realtà sarebbe una casa protetta, un istituto dove sono sotto terapia, hanno la chance di vivere in città, in autonomia, in un appartamento, e quindi è il racconto di questa vita scombinata, piena di contraddizioni, piena di salti nel buio che non vediamo l'ora di andare a vedere, però veramente. I due comici, perché due comici? Perché sono intanto due comici molto bravi, quando i comici sono bravi anche nella tragedia, sono bravi anche a cambiare registro in un attimo, e poi perché il testo comunque ha questa leggerezza, questa levità, che non è superficialità ma è diciamo l'opposto della profondità, la leggerezza, e quindi sono perfetti per fare questi Voglio due scombinati. Dire per onore della precisione, come diceva un altro celebre personaggio prima di me, il nome dell'autore norvegese Axel Helstenius, sì, esatto, quindi, sì. Giusto per dire anche della difficoltà della lingua norvegese. Gioele Dix, che si è fatto redattore di Radio 24 stamattina, e di Si può fare in particolare, gli abbiamo chiesto se aveva avuto il privilegio di conoscere per qualche motivo Umberto Eco e di poterci dare quindi un racconto diretto di Umberto Eco, e lui ci ha detto no, non ho avuto questo privilegio, questo piacere, però conosco una persona. Sì, che... ho un altro privilegio, che è essere amico di Stefano Bartezzaghi, che lo ha conosciuto molto bene, è stato un suo allievo, e quindi abbiamo provato a chiedere se aveva voglia di parlare. E lui ha detto sì, e gli diamo il buongiorno, Stefano Bartezzaghi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Stefano, sono Carlo Gabardini, così perché siccome ci conosciamo poi non vorrei che uno diciamo, ma non me l'hai detto. lo sapevo. Io ho letto stamattina, lo dico per chi magari ci sta ascoltando già da un po', in rassegna stampa, il tuo ritratto di Umberto Eco che tu hai conosciuto quando eri all'Università di Bologna, lui era docente. Sì, l'ho conosciuto, mamma, sono passati 35 anni. Tantissimi. Sì, era nell'81, io mi ero iscritto al DAMS e sono andato per curiosità a vedere una lezione di questo Eco di cui tutti parlavano, perché nell'80 era uscito Il nome della rosa, che lui era già famoso da prima, però col Nome della rosa è diventato addirittura popolare. E che impressione avesti subito di lui? Quella che ho cercato di raccontare nel mio articolo, cioè era praticamente andare a lezione da Eco, se uno era in quella disposizione d'animo, significava come sedersi su un missile che veniva istantaneamente fatto partire veniva una voglia di studiare mai avuta nella vita, veramente, veramente pazzesca, a me come a molti altri miei colleghi. Mi è piaciuta molto questa frase, Stefano, in effetti, perché tu citi persone insospettabili che anche anni dopo hanno confessato avere visto una conferenza, un dialogo, una lettura di Umberto Eco come ha messo voglia di studiare, che è una cosa rarissima nella vita, non succede quasi mai. Sì, io ho un aneddoto, una volta temo di averlo anche raccontato in pubblico una volta, quindi lo ripeto, che molti anni dopo l'ho incontrato a Parigi, dove stavo facendo lezioni al Collège de France. Erano lezioni aperte e sono andato a sentirlo, facevo una lezione sul cabalismo cristiano, un argomento che malgrado l'apparenza è affascinantissimo, che è un classico di Umberto Eco, devo dire, dei titoli pazzeschi e poi invece tutto spiegato, che uno improvvisamente si innamorava di qualunque parola. Infatti, e poi quando è finita la lezione siamo andati, sono andato a salutarlo e c'era un altro suo amico, cioè Alain Elkann, e ci ha portato a bere in un baretto che conosceva lui, e io ho colto Alain Elkann che gli diceva: ma sai Umberto, a sentire queste tue lezioni c'è anche caso che uno impari qualcosa. E devo dire che appunto lì ho capito la potenza di didatta di quello che poi è diventato anche il mio amico Umberto. È piaciuta un'altra cosa del tuo ritratto che c'è oggi su Repubblica, Stefano, il fatto che tu dici non era uno che se la tirava assolutamente, qualunque studente poteva andare nel suo studio e se ricevuto a parlare con lui senza fare trafile particolari, nessuno che chiedeva l'autografo dei suoi romanzi. Ma lui infatti ha un'immagine pubblica, soprattutto dovuta ad alcuni giornalisti, perché con i giornalisti lui si spazientiva e li trattava anche molto male, gli ho visto fare delle scene un po' imbarazzanti, ma una volta che era dentro all'università, lì per lui cambiava tutto. Era veramente, era l'abbazia, era il suo monastero era aperto a tutti, si trattava, recentemente poi lui ha fatto anche una bustina di Minerva sul fatto che tutti si danno del tu, ma lì veniva proprio da darglielo il tu, né lui se ne è mai lamentato, perché c'era questo trattamento da colleghi. E peraltro ho appena letto su Facebook una testimonianza di qualcuno che non conosco, non mi ricordo adesso, mi dispiace, non mi viene neanche il nome, che dice: io l'ho incontrato una volta sola in piazza Cairoli a Milano, cioè vicino a casa di Eco, e l'ho fermato per strada e gli ho detto: ma professore, senta, mi scusi, sono un studente della Cattolica, ho appena fatto l'esame di filosofia medievale, ho litigato con l'assistente che mi ha dato 24 perché dicevo delle cose su Guglielmo da Occam che non gli piacevano. Ma ho ragione io o ha ragione lui? E Eco si è fermato per un quarto d'ora a spiegargli Guglielmo da Occam sotto anche una pioggerella, e questo è ritornato in università e ha detto: ma guarda che Eco mi ha dato ragione, e dal 24 è passato al 27. Bastava la parola, dire sulla parola. Sì, sì. Ci sono cascate, è un trucco che io non ho mai usato, peccato, all'università, avevo potuto pensare. Eri tu Stefano questo studente? No, non ho fatto la Cattolica, non avrei potuto, ma l'idea di Eco che si ferma in piazza Cariloli sotto la pioggia con tutte le cose che aveva avuto in testa è abbastanza straordinario. Italia. Di parlare per un quarto d'ora di Guglielmo da Ockham con un passante, mi pare che lo definisca meravigliosamente. Sì, giusto. Grazie, giusto. Stefano Bartezzaghi, un grande abbraccio, grazie per essere grazie, stato veramente. Con noi. Ciao Stefano, a presto. E grazie anche a Joelle Dix, tramite il quale abbiamo avuto anche noi il privilegio di avere un racconto diretto di chi era Umberto Eco. Vi dicevo anche che ho il cellulare privato di Obama, il quale ha un piccolo ricordo su Eco, perché ne sono incontrati, però tra non poco. Risponde, è spento. Dopo il traffico ci riproviamo. Vabbè. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ukajida masewela tiko likumeza Kunja kuno kwa za matenda wa ezi Ukajida masewela mulo uluza Questa è Si può fare, questa che state ascoltando è a message del Zomba Prison Project. Come ben sapete, noi cerchiamo sempre dei si può fare in musica, quindi se siete dei cantanti, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e incontrate una canzone dentro la quale secondo voi è compreso il concetto di si può fare, segnalatecela. Questa che abbiamo appena sentito ci è stata segnalata da dov'è? Da nessun ascoltatore, forse questa volta come eccezione alla nostra solita regola. Non vedevo il nome, chiedo scusa. Andate a scovarla alla redazione, perché esatto, questa è una band del Malawi nata particolare. Nel carcere di Zomba, questa band che stiamo sentendo che è stata candidata ai Grammy Awards con l'album I Have No Everything Here, tra i best world music album. Va bene, segnalatecele i vostri si può fare in musica. Credo che sia qualcuno della redazione che è stato nello stesso carcere, forse. Forse sì, esatto, non lo volevamo dire, ma giustamente Joelle Dix ci ricorda buono, che si sono incontrati in carcere e quindi hanno portato qua la musicassetta con questa, esatto, con questa canzone. Comunque potete segnalarci i vostri si può fare in musica sui nostri account di Twitter, si può fare di Facebook, si può fare trattino Radio 24, oppure di Twitter, chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini. E quello di Alessio chiocciola Ale Maurizi. Cari ascoltatori, 800 24 00 24 potete continuare a chiamarci anche per darci il vostro ricordo, il momento in cui avete incontrato nella vostra vita Umberto Eco. Incontrato anche idealmente, letterariamente, esatto, certo, perché lui si è occupato di tutto, dalla fenomenologia di Mike Buongiorno al darsi del tu, ai social network, passando per il pendolo di Foucault, il medioevo e quant'altro. Ci ha raggiunto in collegamento telefonico Giobbe Covatta, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, che ve ne pare, sembro sveglio. Buongiorno, sì. Non molto, c'erano anche se sappiamo che lo sei. Facevamo scommesse qui su come sarebbe stata la tua voce. Giobbe, chi è? Sono io. Il tuo regista. Come si chiama tua figlia? Questa è come la domanda per aprire. No, perché lui qualche volta sì, è vero che una volta ti sei sì, non eri abbastanza sveglio e in un'intervista non mi ricordavo il nome di mia figlia. È bello questo, stiamo assistendo alla regola di ingaggio, cioè il regista che chiede al suo attore, evidentemente questa è la domanda che vi siete fatti tutti la mattina, finché Giobbe Covatta non ricorda il nome della figlia non si può iniziare a provare. Certo, esattamente. E bisogna anche aggiungere che Giobbe Covatta non ha un problema di relazione con sua figlia, è semplicemente che ha un problema con la memoria quando siamo di mezzogiorno. Esatto, forse ha solo un problema con la mattina, direi. Allora, ma la mia mattina dura fino all'una più o meno. Temevo fino alle 5 di pomeriggio. No, si spinge fino all'una. Giobbe, nel frattempo Joelle Dix ci ha raccontato qualche cosa del tuo personaggio. Un e uomo che mi avete chiamato ho detto qualche per vedere, cosa. È per vedere se Joelle Dix mente o se ha detto la verità. Un uomo ossessionato dal cibo e dal sesso, dice così la locandina. Come darti torto del resto in questa interpretazione? Infatti, matto a chi? Matto a chi? Com'è stato lavorare su questo progetto, Giobbe? È stato bello, interessante, abbiamo discusso, abbiamo anche litigato con Gioele. Ecco, è questa che volevamo sentire. Vedi, questo se lo ricordava, vedi? Sì. Ma io non ne avevo parlato. Perché... Ha una faccia preoccupatissima, Gioele, in questo momento, quindi adesso puoi raccontarcelo. No, ma mica abbiamo niente di che, insomma, ci siamo dati delle testate sul naso, è stato intanto per me anche abbastanza, o se dico delle cose che non significano niente, io vestito niente. Ma certo, è stato anche molto interessante, perché io non interpreto spesso, insomma, mi capita più invece di raccontare, di fare monologhi, insomma, di fare job covatta più che personaggi diversi da me stesso. Invece in questa circostanza, ecco là che sono uno splendido interprete di... ma veramente splendido. Sì, ma tra l'altro splendido anche fisicamente, perché ha un rifiorire fisico sulla scena, esatto, straordinario. Un taglio da hipster. Mi dispiace che in radio loro non lo vedono. Ma però, sì. Che peccato. Devo dire che Giobbe è stato bravo e generoso, cioè ha fatto uno sforzo in più di quello che farebbe, diciamo, un attore normale, ma ha cercato di demolire un po' il job covatta che in sé, comico, ma non la parte migliore, cioè la parte quella, insomma, del job che tutti conoscono. E quindi è Giovanni quasi sempre, ogni tanto Job esce fuori, ma è anche un piacere per noi, per lo spettatore, per tutti, no? Però, perché poi ovviamente, essendo un testo, come ho spiegato, sia comico che poetico, quando è comico ci sono anche delle invenzioni che ci stanno, insomma. Ma c'è, quanto avete provato? Sì. Quante settimane avete provato? Abbiamo provato una quarantina di giorni, non tutti consecutivi. Vabbè, quindi... Sì, provando 20 minuti al giorno. Sì, però, esatto, insomma, no, questo sì, non vale dirlo. Sono tanti o sono pochi, Gabardini? 40 giorni? Beh, 40 giorni è un buon tempo, mi sembra. Poi abbiamo qua Gioele Dix, lo chiediamo a Gioele Dix, è il regista. Se lui ne avesse chiesti 100 e la produzione gli ha detto di no. No, ne ho chiesti, loro hanno... Più che altro è vero che non abbiamo lavorato tantissime ore consecutivamente, ma perché si rende meglio lavorando intensamente. Pensamente, sì, ma è così. Nel personaggio di Giobbe Covatta c'è questa cosa del lavoro che in qualche modo riabilita il personaggio e il suo mondo, il suo disagio mentale. Verrebbe da fare una battuta: tra assenteisti e disoccupati, solo gli insani di mente ormai viene voglia di lavorare. Però è una questione che anche noi abbiamo affrontato tante volte nel nostro programma, questa del veramente il lavoro come terapia. In che modo viene fuori nel personaggio di Giobbe questa questione? Beh, diciamo che lui lui intanto è uno che ha sempre voglia di fare, ha questa sua scatola, questa cassetta degli attrezzi che è un po', e quindi è soprattutto molto generoso, tanto è vero che lui approccia questa vicina della quale poi si innamorerà, più che altro lei si innamorerà di lui, che è stupefacente vedendo il tipo che è lui all'inizio, perché lui è generoso e si occupa di sistemarle tutte le cose in casa, cioè è anche una delle cose più belle che esistono, perché come diceva anche Woody Allen, non solo non si sa se esiste Dio, ma provate a trovare un idraulico la domenica, nel weekend, no? Esatto. Ecco, e quindi quindi è questa un po' la forza del suo personaggio, che è generoso, che dà. Non so se ho detto bene, Giobbe, sei sveglio? Sì, ma se dici tutto, poi non si scopre chi è l'assassino, ho solo parlato di qualche riparazione. Dai, su. Cominciate il 24 febbraio al Teatro Carcano, però avete già debuttato, vero Gioele? Sì, abbiamo debuttato a Bagnacavallo, dove abbiamo fatto un bel lavoro di intenso. E poi loro stanno facendo stasera sono a Vigevano sia stasera che domani. Anche domani. Al Teatro Cagnoni, uno dei più bei teatri della Lombardia. Bellissimo. Bene, molto bene. Gio, vuoi dire qualcos'altro? Perché qui sì, mi piacerebbe poter aggiungere qualcosa. Un caffè per piacere! Giobbe, te la faccio io una domanda. Ma è vero che sei diventato portavoce? Sei un personaggio molto poliedrico. È ufficiale? Sei portavoce dei Verdi Italiani? Beh, diciamo che in questo momento sono congelato almeno fino alla fine della tournée, perché non, come vedi non posso portare la voce, di nessuno, neanche la mia. Però la nomina c'è stata, la nomina c'è stata. Sì, non è stato, perché sono stato volevamo chiederti, voce congelato è bellissimo. Volevamo chiederti verdi. Notizie, volevamo chiederti notizie di Pecoraro Scanio, non so che fine ha fatto, che è stato... Poi un giorno ci incontriamo e ne parliamo. No, ma noi vogliamo sentirlo ai microfoni. È una domanda scelta o su Pecoraro Scanio o su Umberto Eco, scegli tu. Umberto Eco, parliamo di Umberto Eco. Quel giorno che ci conosciamo. No, sì, anzi, vi racconterò questa cosa di Umberto Eco che mi ha sempre entusiasmato tantissimo. Una volta stavo al Teatro Argentina e c'era Veltroni che presentava un libro, non ricordo quale dei libri che ha scritto Walter, e c'erano Umberto Eco e Eugenio Scalfari che facevano i redattori. I relatori. Scusate, ma la L non è la D, relatori. L'orario è assolutamente... Parlare la mattina presto con il proprio regista dall'altra parte del telefono, non vorrei farlo, che mi corregge giustamente le consonanti. Vai appena un po' più di testa, sei un po' troppo profonda la voce, vai un pochino più alta, se riesci. Io col mio regista non ci parlerei manco al pomeriggio, figura della mattina. Comunque, detto questo... E c'erano loro due che stanno facendo i relatori di questa cosa. Venne Verini a chiamare Walter perché doveva andare in Parlamento a votare e rimasero sul palcoscenico Umberto Eco e Eugenio Scalfari per una quarantina di minuti da soli a cazzeggiare. Fu un'esperienza esilarante. Si prendevano in giro l'uno col defunto, furono 40 minuti veramente straordinari. Mi spiace di non averli ripresi. Beh, bello. È il mio ricordo di Umberto. Quindi grande ironia. Grazie mille. Grazie, Gio, puoi Covata. Tornare a dormire, eh? È ufficiale. Allora, ma figurati se adesso mi rimetto a dormire, mi avete svegliato. Ma anche come che ti richiamiamo tra un'ora. Tra l'altro, svegliare gli attori la mattina è veramente un'impresa ardua. Ci siamo riusciti con Giobbe Covatta, credo che non ci siamo riusciti con Enzo Iacchetti, perché al momento non so se... No, Iacchetti ha risposto, ha detto vi richiamo io a mezzogiorno, esatto, quindi non è un problema. Andiamo in pubblicità, torniamo tra un attimo, 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Qua ci siamo superati, il nostro Andrea Piana, bisogna sempre ringraziarlo, perché rubiamo un'isola dei Pooh, qua c'è tutto, c'è Sanremo che è appena passato, anche se hanno vinto di stadio, e c'è la nostra notizia, perché è la notizia che ha a che fare con l'isola di Budelli. Sapete che se la stava per comprare un magnate, il magnate Michael Hart, che non ricordo se è australiano o neozelandese, si è ritirato e allora si sono fatti avanti un gruppo di ragazzi di una scuola di Biella. È con noi Riccardo Ongaretto, che è l'insegnante della scuola media di Mosso. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. E con lui c'è anche Fabio, forse, uno degli studenti. Sì, Buongiorno. Eccolo, buongiorno. Qua, eccolo qua. Allora, della serie, quando la sana follia proprio dei giovani partorisce questa idea sfacciata così, no? Ma anche brillante e potenzialmente realizzabile, quella di acquistare moneta sonante alla mano l'isola di Budelli, che non costa moltissimo, professore. Quanto costa? Costa 3 milioni di euro, o meglio, il prezzo all'asta era di 3 milioni di euro, quasi 3 milioni. Beh, insomma, mi va via per poco, non sono tanti. Per essere un'isola va via per poco, però per tirarli su... 2 euro al metro quadro. Esatto. Quanto? 2 euro al metro quadro, più o meno. Beh, insomma, rispetto ai prezzi delle case a Milano è molto economico. È terriccio però, non è appartamento al sesto però piano. Sì, però sì. Il magnate mi ci voleva costruire sopra prima un'oasi naturalistica, poi piano piano sono venute fuori idee un pochino più strutturate, commerciali, ponteggi, yacht, edifici, yacht, eccetera, porti. Eccetera. E quindi è stato dissuaso forse, o comunque ha rinunciato. E questa per voi è stata una buona notizia, professore, vero? Ma sì, diciamo che ci aveva colpito già qualche anno fa, nel 2013, quando era uscita la notizia, ci aveva colpito il fatto che un pezzo di Italia fondamentalmente venisse acquistato da uno straniero, che poi, per carità, queste cose succedono di continuo, ma quando si tratta di un'isola fa un po' più effetto. Oltretutto, un'isola in un parco naturale, ricordo, aveva creato un po' di scandalo. Anche, anche se forse un neozelandese mediamente è più non so come dire, non so che parola utilizzare, più esperto, più amante della natura forse dell'italiano medio. Questo poteva essere una rassicurazione, però poi non è andata così, perché appunto il progetto era di fare, che cosa voleva fare Hart sull'isola di Budelli? Ma appunto, come dicevate, all'inizio sembrava un progetto comunque che preservasse l'integrità dell'isola, poi sembrava che volesse in qualche modo cementificarla, quindi appunto approdi per gli yacht, farci insomma un bel resort, un qualche cosa per VIP, per chi può spendere molto. Sì, di sicuro non qualcosa a disposizione di tutti, ecco. Sì, e invece l'idea che è nata lì con i suoi ragazzi, lo possiamo chiedere anche a Fabio direttamente. Qual è stata la vostra idea, Fabio? Noi abbiamo guardato, leggendo il giornale, abbiamo notato che c'era questo articolo su quest'isola di Budelli che era finita all'asta e adesso era di nuovo messa all'asta dato che Arta aveva rinunciato. E allora, dato che noi in matematica stavamo facendo le proporzioni e in scienze stiamo occupando di ecologia, abbiamo avete messo le due cose insieme. E il remedio qual è stato, Fabio? Cosa avete pensato di poter fare? Abbiamo pensato di calcolare i 3 milioni, che è il prezzo con cui Art se l'era aggiudicata all'asta, sì, diviso i 60 milioni di abitanti circa che bellissimo abitano in Italia. È quello che penso viene in mente a tutti di fare in questi casi, no? Ma ce ed la portiamo via con... Ed è uscito che se ogni abitante italiano donasse, sì, 0,05 euro, cioè 5 centesimi. L'isola potremmo acquistarcela noi, abitanti dell'Italia. 5 centesimi sono ovviamente un'infinitesima quantità. È bellissimo che tutto parta da... Stavamo studiando le proporzioni. In realtà devo ammettere che avevo capito che dovessero metterci soldi solo gli studenti. Invece avete diviso per 60 milioni, quindi ogni persona deve metterci 5 centesimi. Invece pensavo che ve la cavaste solamente acquistandola voi. Ma purtroppo no, perché in realtà il progetto credo che coinvolgere 60 milioni sia un po' più difficile, coinvolgere solo gli studenti sia un po' più facile. Ma avete fatto anche questo secondo calcolo che diceva Carlo, cioè calcolare quanto costerebbe? 50 centesimi. Ecco, 50 centesimi se tutti gli studenti, professori inclusi direi, visto che abbiamo in linea anche un professore. Io ce li metto. Anch'io ce li metto comunque, perché il bello è che cosa si fa poi di quest'isola? Quest'isola poi verrà lasciata o allo Stato o un parco o qualche associazione che si occupa della natura, come Italia Verde, così. Perché non credo che abbia anche dei costi di gestione poi avere un'isola, nel senso che forse lo Stato voleva anche venderla per poi non avere i costi di gestione, però... Mi stai correggendo il business plan? No, aggiungiamo a 50 centesimi altri 50 per la manutenzione, vogliamo fare così? No, io sono felicissimo che venga invece gestita dagli studenti, perché mi sembrava di aver capito che si volesse farne un'isola dei ragazzi, insomma, in qualche modo un luogo dove puoi fare delle attività, suppongo. Ma diciamo che questa, la parte del dopo non l'abbiamo ancora affrontata con i ragazzi. Di sicuro l'idea è quella di appunto raccogliere i soldi necessari per acquistare. Tra l'altro non è lo Stato che la mette in vendita, perché l'asta fa parte, l'isola fa parte di una asta fallimentare, se non sbaglio. Ah, chiedo scusa. E quindi si tratta di ridarla allo Stato privato per restituirla a... dire allo Stato sembra brutto, no, no, ma è giusto a noi tutti, alla collettività. Beh, insomma, un sogno bello che ci piacerebbe si potesse realizzare. Aiutiamolo a crescere. Cosa possiamo fare per aiutarvi, professore? Noi abbiamo aperto, premetto che la nostra idea non era quella di creare tutto questo grandissimo interesse da subito, perlomeno, e quindi siamo stati presi un po' in contropiede. Abbiamo subito aperto una pagina Facebook dedicata all'iniziativa, che la pagina si chiama Non si sbudelli l'Italia. Perfetto. E ecco, adesso in questo momento con i ragazzi abbiamo studiato il panorama del crowdfunding in Italia, quindi abbiamo analizzato diversi siti che offrono questi servizi di crowdfunding, ne selezioniamo uno, siamo già in contatto con alcuni di essi che si sono dimostrati interessati e apriremo una raccolta fondi online. Prestissimo dobbiamo aprire un conto corrente appositamente per questa iniziativa, perché c'è davvero tantissima gente. Così i ragazzi imparano tante cose, come si apre un conto corrente, come si va su una piattaforma di crowdfunding e quanto possono essere generosi gli italiani. Giusto. Sì, questo è un progetto scolastico comunque, prima che un'iniziativa sociale. Giusto, ma infatti le volevo fare una domanda, cioè nasce in realtà più come provocazione e invece adesso potrebbe anche diventare un progetto reale? Non è affatto una provocazione, è un progetto reale. Perfetto. Ripeto, è un progetto scolastico comunque, quindi non ci proponiamo come... gestore dell'isola. Non è il successo dell'iniziativa, quindi l'acquisto dell'isola, per noi il successo del progetto, ma il fatto che si faccia un percorso con i ragazzi e che i ragazzi facciano determinate esperienze. Grazie professore. A comprare l'isola. Grazie per essere stato con noi, Riccardo Ungaretto, e anche a Fabio, uno dei ragazzi della scuola di Biella, che ha promosso questa iniziativa. Ci fermiamo per il traffico. Gioele, tu hai mai pensato di comprare qualcosa di folle, di fare un acquisto? Sì, ma le isole sono una bella cosa da comprare, solo che poi non ci puoi fare niente, perché appunto io l'avrei comprata per farci un attracco, per farci anche tu cosa, per cui perché senza nemmeno l'attracco come fai devi avere un eliporto. Sì, beh, poi c'è la difesa di tutto, la tutela della formica del Bangladesh, insomma è sempre difficile. Conviene comprare un'isola asfaltata, già asfaltata. No, però il prezzo a metro quadro alletta, effettivamente era buono, per 2 euro al metro quadro. Comunque vi faccio notare che dall'inizio della telefonata alla fine, da 5 centesimi è passati a 1 euro. Esatto. Quindi, se andavamo avanti era crisi, l'inflazione e poi la dura realtà. È la dura realtà della finanza. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ascoltatori. Abbiamo Franco che ci chiama da Macerata. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Lieto di conoscervi e di essere in diretta. Su cosa volevi intervenire, Franco? Sì, vi chiamo perché questa mattina mi sono svegliato e mi sono sentito orfano, tra virgolette, perché sono stato allievo di Ecolo, lo conoscevo. E per me è stato, io l'ho definito, un padre intellettuale della mia giovinezza. E quindi è stata una mattina difficile, anche se chiaramente non è un padre naturale. Volevo raccontarvi che io poi tra l'altro ho finito per scrivere un libro su di lui 10 anni fa, quindi per me è stata una dolce biografia, una specie di biografia? No, era un saggio edito da Castelvecchi sui suoi romanzi, quindi I segreti della narrativa di Umberto Eco. E qual era il suo segreto secondo te? Beh, lui aveva utilizzato i romanzi come frontiera, come estrema frontiera della sua indagine teorica, cioè ciò che lui ricercava nei suoi saggi più difficili, trattati di semiotica, inaccessibili alla maggior parte delle persone, visto il linguaggio esoterico, venivano poi tradotti in un linguaggio narrativo nei romanzi. E quindi secondo me i romanzi erano il posto dove lui cercava di risolvere i problemi che non poteva per determinati motivi risolvere in campo teorico. Ed era questo forse il senso di avventura intellettuale che c'era nella sua narrativa. Insomma, il romanzo come format in sé per dire qualcosa del mondo e sul mondo. Franco, grazie per averci chiamato, ma non ho capito, poi tu lo hai conosciuto personalmente? No, io ero, pensate, studiavo ragioneria, leggevo i suoi libri di semiotica e cominciai a scriverli, quindi gli mandavo delle lettere. E lui, anche se io ero un emerito carneade, sì. Lui rispondeva puntualmente fantastico, a tutte le mie lettere. Fantastico. E quindi aveva questo di straordinario, che rispondeva a chiunque lo contattasse per qualsiasi ragione. Poi io, grazie a lui, mi convertì alla filosofia, cambiai completamente strada, rifiutai un posto in banca per fare il filosofo, e quindi per me è stata una figura fondamentale. Non ti sei pentito di questo cambiamento? No, affatto. Economicamente forse sì, però dal punto di vista intellettuale mi sento più coerente con la mia natura profonda. Grazie, quindi. Franco, grazie mille. Un altro che gli è venuta voglia di studiare ascoltando Eco. Sono tanti. E anche di mollare il posto in banca, è il posto fisso, quindi interessante. Interessante averla presa con filosofia, come ha fatto il nostro ragioniere. No? Esatto. Allora, io voglio dare un'informazione di servizio a chi si fosse messo in ascolto solo in questi minuti. Perché Joelle Dix è in studio con noi, oltre che per commentare quello che va in onda, perché Joelle è così, è come un jukebox. Certo, soprattutto sono un vostro grande ascoltatore. E poi c'è una rubrica telefonica. Sono stufo di parlare da solo davanti alla radio senza che ho detto fatemi venire dentro la radio, così mi sentite quello che dico. Anche gli insulti che peraltro vi dico col microfono spento. Stavolta però puoi dirli. No, questi no. E fai ha un'agenda telefonica straordinaria. Stiamo provando a contattare Obama, perché dopo Bartezaghi abbiamo e Giobbe Covatta invece con gli acchetti non siamo riusciti. Gli acchetti non so come mai, ma forse perché hai invertito i due numeri, ci hai dato il numero di Obama. No, stiamo chiamando la Clinton, stiamo chiamando Obama, adesso va a finire male. No, Obama deve cambiare operatore perché c'ha un problema con l'operatore telefonico. E invece noi abbiamo uno spettacolo di cui abbiamo parlato, ed è Matti da Slegare che esordirà. Ma perché se avete già fatto delle rappresentazioni si dice esordire? Perché è il debutto. Sì, ma perché in realtà il debutto voi è sempre... Voi teatranti avete un po' dei riti, delle cose un po'. La parola debutto significa farlo per la prima volta in un posto. Quindi il debutto a Milano è mercoledì, in realtà il teatro... Ogni volta che cambi città è un debutto. Sì, debuttiamo stasera significa che... Se andiamo a Torino, debuttiamo a Torino. E poi c'è un po' un sistema che a volte si chiamano anteprime, quelle prima di arrivare magari in una città importante o alla quale tieni, certo, per svariati motivi, sì. Quello diventa il vero debutto ufficiale. La vera cosa è che lo spettacolo è già un po' rodato e quindi avvertiamo gli spettatori che non vedranno una prova aperta. No, anche quelli che l'hanno visto prima hanno già visto uno spettacolo compiuto, insomma, certo. Si cerca di arrivare al primo debutto in forma... Smagliante. Forma accettabile, insomma. Adesso vi voglio parlare, ne parliamo anche insieme a Joelle Dix, di un appuntamento che ha a che fare col tema del tuo spettacolo. Allora, l'appuntamento è questo, si terrà ad Osaka, diciamo un po' fuori mano per andarci, però è giusto dirlo e raccontarlo, dal 23 al 29 febbraio il primo campionato mondiale di calcio per persone affette da disturbi mentali, The World Craziest Cup, ed è con noi l'allenatore della nazionale, in questo caso italiana, Enrico Zanchini, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ex giocatore di calcio a 5, coinvolto in questo progetto. La domanda che tutti ci facciamo è: con quale schema scenderete in campo? Guarda, col 3-1, classico schema da calcio a 5, quello un tutti po' all'attacco e uno in porta? Eh? Tutti all'attacco e uno in porta? Esatto. Ma io invece la vera domanda che voglio fare è chi sono i convocati, perché di solito uno vuole essere convocato alla nazionale dei matti, non lo so come succede, ci tengono a essere convocati o uno dice ma io non vorrei essere messo nella nazionale dei matti? No, invece sono venuti in tantissimi alle selezioni, più di 30, e sono motivatissimi e contentissimi i 12 che porteremo in Giappone. Ma entrano i più bravi o i più matti? Sono, diciamo, entrambi, ma soprattutto bravi. Io mi sono piacevolmente sorpreso dal livello tecnico dei ragazzi. Ecco, ce ne stanno 2-3 che non sfigurerebbero in categorie regionali. Vedi? Chi è che dobbiamo, l'avversario che dobbiamo temere di più? Il Giappone? Sì, perché il Giappone in questo movimento sta molto avanti. Hanno tantissime squadre, hanno l'appoggio della federazione e dei club professionistici. E quindi hanno tantissimi matti, immagino. Io credo proprio di sì, perché sono centinaia di squadre, quindi o sono molti matti appassionati o proprio anche molti matti in generale. Noi qua abbiamo in studio con noi Gioele Dix, che da regista ha diretto Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta in uno spettacolo Matti da slegare. Loro due pure sono matti. Non so chi dei due ha fatto più fatica, se Gioele con Covatta e Iacchetti o lei Zanchini con i suoi giocatori ad allenarli. Beh, lui ne aveva solo 2, io ne ho 12, quindi forse io. No, io volevo chiedere, siccome spesso gli allenatori del calcio, quello diciamo normale fra mille virgolette, dicono che il problema è l'approccio mentale alla partita, volevo capire qua forse diventa un'opportunità. Voi qual è come lo affronta l'approccio mentale? Guardi, glielo dico quando torno, perché per ora abbiamo fatto solo allenamenti. Fantastico. Poi quando tornerò glielo dirò, però secondo me loro sono veramente molto motivati. Dobbiamo chiudere, però vorremmo vedere le immagini di questo campionato. Spero anche che risentirci a voce che dopo. Sia documentata e poi risentirci a voce. Grazie Zanchini, in bocca al lupo per grazie questa mille. Avventura. Davvero grazie. Per fare delle donazioni, arrivederci. Delle donazioni, però non abbiamo il tempo di approfondire. Okay. Mi dispiace, ci risentiremo. Un ringraziamento ci ad noi, Piana, la prossima Claudia volta. Schiattone, Peter Bescapa in regia. Grazie a Gioele Dix, Matti da slegare. Quindi è finita già. È già finita. Torna. Dura molto di meno quando sei qui. Devi tornare, Gioele. Quando sei davanti alla radio e vola, finisce mai. È un attimo. Invece adesso viene. No, grazie. Posso tornare? Certo. Ci aspettiamo. Siamo felicissimi.